perché io condivido molto quello che dice Squinzi, agire sulle tasse di lavoratori e pensionati, delle famiglie in modo tale che possano spendere, agire sulle tasse di impresa in modo tale che si invogliano gli investitori italiani e esteri a investire. Senza questa prospettiva noi non usciremo da questa storia e credo che su questo dobbiamo ingaggiare una battaglia forte. Sono anni che le parti sociali, sindacati e imprese insieme hanno questa opinione e questa volta non possiamo fallire perché se falliamo fallisce la nostra economia.